Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica a tutti. Benvenuti a Magazine 24, l'appuntamento con settimanali, mensili, periodici italiani e stranieri dai quali traiamo qualche consiglio di lettura. E questa mattina voglio cominciare con un consiglio di lettura davvero di un grandissimo, e vi leggo così senza dirvi chi è l'autore, ma forse potrete riconoscerlo. Si parla di un bar, si parla di un caffè, quindi mi pare che l'ora possa essere indicata. Si dice appunto: tra i giovanotti ricchi di Madrid allora gli snob si riunivano in un posto chiamato il Nuevo Club, ma quelli in gamba andavano da cicote. Ci andava un sacco di gente che mi piaceva poco, proprio come allo Stork, diciamo, ma non mi capitò una sola volta di andare da cicote e di pentirmene. Una delle ragioni era che là non si parlava di politica. C'erano dei caffè dove si andava per parlare di politica e solo per questo, ma da cicote di politica non si parlava. Si parlava invece ampiamente degli altri 5 argomenti. E la sera vi facevano una capatina le più belle ragazze della città ed era il posto giusto dove cominciare una serata. E da cicote ne avevamo cominciate tutti delle belle. Questo signore che vi ho letto è un giornalista, era un giornalista, ma soprattutto un grandissimo scrittore. Si tratta di Ernest Hemingway. Questa mattina con Il Sole 24 Ore trovate il primo di una serie di racconti d'autore. Sono dei volumetti in cui abbiamo raccolto appunto dei racconti meno noti di grandi, grandissime firme, in questo caso di Hemingway. Il racconto da cui vi ho tratto questo breve passaggio sul bar di cicote è appunto La denuncia. La denuncia è il primo dei racconti che trovate su questo volumetto in edicola con Il 24 Ore. Tra l'altro, una piccola curiosità, ancora oggi se voi andate a Madrid vi consigliano di andare a visitare questo che era il bar preferito di Hemingway, che era appunto in Spagna negli anni della guerra civile. Da lì inviava i suoi reportage ai giornali statunitensi e proprio, diciamo, accanto a questi reportage creava questi racconti come questo, La denuncia, che vi ho letto poco fa. Allora passiamo da un personaggio storico a personaggi che invece non sono mai esistiti. La cosa può sembrare curiosa, ma è lo spunto interessante che viene da Focus. Già ieri abbiamo trovato uno spunto carino su Focus di questo mese, oggi ve ne voglio segnalare un altro: le celebrità inesistenti. Ad esempio, vi racconto questa storia così come la riassume lo stesso direttore Sandro Boeri nelle primissime pagine. Dice: cosa fareste se l'università che avete scelto vi inviasse per sbaglio un modulo di iscrizione in più? Lo buttereste via? Lo restituireste? Bene, Edgar Smith, aspirante studente della Georgia Tech negli Stati Uniti, decise nel 1927 di compilare anche il secondo modulo a nome di un inesistente George P. Bardell. Lo fece così bene che entrambi, cioè sia Smith, quello vero, sia Bardell, che era il suo avatar diremmo oggi, furono ammessi. Sorpreso del risultato ottenuto, Smith decise di continuare a far vivere la sua creatura. Fu così che Bardell, interpretato dallo stesso Smith che sosteneva gli esami due volte, si laureò a pieni voti. Anche dopo la laurea continuò a lavorare e a fare carriera. Risultato: oggi il signor Bardell è un noto scienziato, è accreditato di molte pubblicazioni, di una vita avventurosa, ha sfiorato la nomina uomo dell'anno e ha sfiorato anche la copertina di un news magazine, che è un news magazine famoso in tutto il mondo, che è Time. Niente male nell'era dell'immagine per uno di cui non esiste nemmeno una fototessera. E la storia di Bardell, appunto, insieme a quella di altri inesistenti, viene raccontata appunto da Focus, su Focus di questo mese, e dove si mettono poi a confronto altre celebrità che non sono mai esistite. Ad esempio, non è mai esistito il soldato Kilroy. Probabilmente molti sanno che i soldati americani avevano l'abitudine di siglare con questa scritta Kilroy was here, cioè Kilroy è stato qui, i posti che man mano conquistavano durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro anche durante la guerra in Iraq è tornata questa abitudine, e quindi c'è questa abitudine, diciamo, di segnare con questo Kilroy. Kilroy è una specie di non soggetto, di non soldato, che però viene utilizzato, e c'è anche un premio adesso negli Stati Uniti perché scrive questa frase nel luogo più assolutamente improbabile. Ma i casi di scienziati inesistenti non sono poi così rari. Tra l'altro un professore che è esperto di database, esperto di informatica, ha creato una sorta di avatar che si chiama I Can't Care, fantomatico professore di università. Poi ci sono naturalmente i nomi collettivi, forse qualcuno ricorderà la vicenda di Luther Blissett, era uno pseudonimo preso a prestito da un calciatore, diciamo, non di grande fama, per smascherare un po' le alcune tecniche così di creazione delle notizie dei media, alcune tecniche discutibili, ma di appunto celebrità non esistenti è piena la nostra storia anche molto prima dell'invenzione di internet, che siamo abituati a pensare come il luogo privilegiato, il luogo deputato per creare queste persone che non esistono. Una persona però, vi leggo quest'ultima cosa da Focus, che invece tutti probabilmente pensiamo inesistente ed è invece esistita, è Kit Carson. Kit Carson, beh, questo è un po' per i lettori magari che ricordano i fumetti di Tex Willard. Kit Carson era il pard, era il compare, era l'amico fraterno di Tex. Ebbene, Kit Carson è realmente esistito, fu una leggenda del West, c'è la sua casa natale nel New Mexico e l'hanno, vista la sua celebrità, l'hanno intitolata proprio a lui, trasformandola in un museo. E allora, Filippo Auregi, che anche questa mattina mi accompagna in regia, mi dileggia con una finta sigaretta. Naturalmente nel nostro ufficio è vietato fumare, nei nostri studi è vietato fumare, come in tutti gli uffici aperti al pubblico in Italia. Ma perché vi parlo della sigaretta di Filippo, che è una sigaretta invece di quelle elettroniche che forse avete visto? Perché stanno per arrivare tempi molto duri per i fumatori nel procurarsi le sigarette. Sta, a parte che ci sarà appunto di qui a giorni la giornata mondiale senza tabacco, quindi in cui devo fare anche io outing, cercheranno di convincerci a smettere, però quello che si prepara è una normativa europea molto molto pesante, in cui si pensa di vietare proprio la vendita aperta, cioè l'offerta, la disponibilità evidente delle sigarette. Insomma, le sigarette si continueranno a vendere, ma nascoste sotto i banconi, insomma in qualche modo non si devono vedere più i pacchetti di sigarette. E non è l'unica novità che sta preparando la Commissione europea. Lo spiega Panorama in un articolo di Sergio Luciano. Dice: la Commissione europea sta lavorando a una direttiva che renderà durissima la vita dei produttori e dei negozi, e diciamo un po' più movimentata anche quella dei compratori, dei fumatori. Il 24 maggio partirà la protesta appunto dei produttori e dei negozi contro questa direttiva, perché, come sintetizza l'articolo, dal tabaccaio la sigaretta si dovrà vendere di nascosto. Il 24 maggio si riuniscono a Bruxelles i tabaccai, i coltivatori di tabacco, gli industriali della trasformazione del tabacco, per contestare questa proposta della Commissione europea, che medita di, leggo testualmente, vietare l'esposizione delle sigarette nelle tabaccherie, costringendo i commercianti a nasconderle sotto banco, come già è stato deciso in Gran Bretagna, a partire dall'anno prossimo. Non solo, i pacchetti, secondo la direzione generale dedicata alla salute dei consumatori, non dovranno più avere scritte e loghi colorati e accattivanti, dovranno invece essere tutti uguali, bianchi, al massimo grigiastri. Poi le sigarette dovranno essere prodotte con tabacco puro, senza altri ingredienti, e questo significa mandare fuori mercato, per pure ragioni tecniche, il 40% dell'attuale produzione mondiale, azzerando tra l'altro il tabacco italiano. Questione di settimane, prosegue Sergio Luciano su Panorama, forse due o tre, poi la Commissione scodellerà nelle mani del Parlamento europeo la revisione della direttiva vigente da 10 anni sulle sigarette, e da qui parte poi naturalmente la mobilitazione invece dei produttori e dei trasformatori del tabacco. Non è l'unica, come dire, crociata, l'unica iniziativa antifumo che viene presa. Qui si cita ad esempio le iniziative di Michael Bloomberg, tabagista, ex tabagista ora pentito, che praticamente ha messo al bando le sigarette nel suo territorio, cioè New York City, di cui è sindaco. Però cosa succede? Che proprio l'esempio di Bloomberg fa meditare su questo giro di vite, perché Pare che, ad esempio, in Irlanda il governo abbia introdotto le norme molto dissuasive, ma il 30% del mercato legale abbia finito per spostarsi sul contrabbando. Il Parlamento svedese di recente ha proprio respinto due leggi che puntavano a introdurre in Svezia il pacchetto cosiddetto no logo, cioè senza bianco o grigio, e il divieto di esposizione dei prodotti di tabacco. Si dice però, hanno detto gli stessi svedesi, impedendo la visibilità dei pacchetti, quello che abbiamo finito per registrare è un aumento delle vendite illegali. Ecco, allora vedremo come andrà a finire, se ci sarà davvero questa nuova stretta sull'offerta di tabacco. La prossima settimana è quella della protesta e di lì a poco avremo le decisioni degli organismi europei. Magazine 24. Bentornati, bentornati a Magazine 24. Ci siamo fermati per dare spazio alle informazioni sul traffico. Parlavamo di un vizio, quello del fumo. Voglio parlarvi di un altro vizio, quello del bere. Se ne occupa Sasha Carnevali su 24, 24 mensile del Sole 24 ore, lo trovate da venerdì con il nostro quotidiano. Di cosa si occupa Sasha Carnevali? In realtà non proprio del bere, ma della pillola antisbornia, cioè per curare i postumi della sbornia. Si spiega che c'è una offerta crescente di rimedi medicinali, di rimedi medici o paramedici, insomma, per appunto superare i postumi delle sbronze, e l'offerta, come riferisce che Sasha Carnevali, si divide in cerotti, pillole, compresse effervescenti, magari anche da prendere prima di cominciare a bere e poi da richiamare dopo l'ultimo cocktail. Poi ci sono le bibite pretox da alternare oppure da mixare con i superalcolici, e poi ci sono diversi target, appunto ci sono pillole che si chiamano tra l'altro RU21, sarebbe RU21, significa l'età giusta per l'età adatta per bere, ad esempio negli Stati Uniti. Diciamo tutto questo packaging, tutta questa offerta, tutto questo marketing dell'antisbornia fa un po' sorridere anche lo stesso Carnevali, che dice i benefici sarebbero anche a lungo termine, perché poi il corpo ogni volta avrebbe la possibilità di elidere appunto gli abusi a cui lo sottoponiamo, gli abusi del suo padrone. Certo che se il padrone del corpo, che così assume costantemente pillole antisbornia, fosse davvero un salutista, davvero qualcuno che tiene alla sua salute, magari cercherebbe di non ubriacarsi del tutto. Questa è la considerazione conclusiva di Sasha Carnevali su 24. Di tutt'altra natura invece la considerazione che propone Cesare Fiumi nella sua rubrica di 7 da giovedì in edicola con il Corriere della Sera. Si occupa di calcio e razzismo. Il tema non è nuovo e spesso viene anche affrontato da questi microfoni, dalle trasmissioni sportive di Radio 24, ma visto che oramai ci avviamo alla chiusura del campionato, non mi dispiace segnalarvi questa rubrica di Fiumi, questa puntata della rubrica di Fiumi, che prende una posizione molto dura e dice: qua noi siamo abituati a parlare di frange isolate, ma queste non sono frange isolate, perché il catalogo aggiornato delle offese è come un precipitato di rabbia e di intolleranza che oggi abita il paese. Cita una serie di episodi, li avete sentiti più o meno tutti, dai cori ai dileggi più vari, insomma agli insulti più irriferibili. Preferirei non rievocarli ulteriormente per evitare, come dire, di dar loro ulteriore celebrità. Invece leggo volentieri il passaggio in cui Fiumi contesta il modo che abbiamo di liquidare questi episodi, dicendo: vabbè, ma sono frange isolate di teppisti. Dice: frange isolate ci fa sapere l'ovvietà ricorrente che ripete da anni a ogni sgradevole incidente la bolsa formuletta senza speranza, che era appena digeribile quando gli stadi erano pieni e il calcio appetibile per lo spettatore ancora sprovvisto del prefisso telespettatore, ma oggi che gradinate e tribune sono sovente semivuote non dovrebbe poi essere così complicato, avendone la volontà, per isolare e identificare ste benedette frange isolate che in un'assenza crescente di pubblico diventano spesso la maggioranza. altri episodi appunto di cori razzisti, frange isolate, e spiega gente che inneggia gli omicidi, e si parla appunto di frange isolate, lo fa per dileggiare la squadra ospite, tifosi che intonano cori razzisti all'indirizzo dei giocatori di colore, frange isolate, scrive ancora appunto Cesare Fiumi, e tifosi che vomitano insulti contro guardaline di colore, atteggiamenti, viene scritto, posti in essere da una parte esigua e largamente minoritaria del pubblico, oppure i cori inneggianti la discriminazione razziale verso un calciatore di colore ma della propria stessa squadra. Ecco, tutti gli episodi, precisa Fiumi, che sono racchiusi negli ultimi 2 mesi, tutti stigmatizzati sempre da questo identico luogo comune, frange isolate, che si tratti della Serie A, che si tratti del torneo allievi, dello stadio di San Siro, l'ultimo campetto dei dilettanti. Allora viene da chiedersi perché nessuno le taglia queste frangette che ogni domenica ti cadono sugli occhi, obbligandoti a spettacoli indecenti su e giù per l'Italia, roba da farti cadere le braccia. Cambiamo completamente argomento, cambiamo anche stato, passiamo all'estero, passiamo alla Francia, perché dal Nouvel Observateur ricavo questa indicazione passata da Jacqueline de Linard. Ci dice che a Parigi stanno aumentando gli agenti antistress, così si chiamano loro. In realtà sono delle persone che offrono massaggi fatti appunto per strada. Uno passeggia per Parigi, per i quartieri di Parigi, e trova queste persone che si offrono di fare un massaggio, e il prezzo è variabile, non c'è propriamente un tariffario. Ne ha incontrati alcuni, sono persone spesso titolate per fare questo lavoro, cioè si tratta magari di massaggiatori veri e propri, oppure professori o ex professori di ginnastica, altri invece sono più improvvisati. Ma la cosa sta crescendo, qualcuno di loro ha anche pensato di chiedere una sorta di riconoscimento, di albo appunto professionale, per inquadrare, per dare un minimo di inquadramento appunto a questa offerta dei massaggi che vengono offerti per strada. Si paga tra 10-20 euro, dipende un po' diciamo dalla generosità della persona che accetta questo trattamento antistress praticato mentre si va al lavoro o mentre soltanto si fa una passeggiata. Tutto questo succede a Parigi, ce lo riferisce Nouvel Observateur di questa settimana. Invece ci riferisce di una iniziativa molto particolare, Vita, di questa settimana. Parliamo di una questione molto molto complicata. Parliamo di migranti, parliamo di queste persone che sbarcano, continuano a sbarcare in Italia, li vediamo arrivare alla televisione, li vediamo su questi barconi. Ecco, c'è persino un problema nello smaltimento dei barconi, cioè ci sono davvero tantissimi barconi in questo momento a Lampedusa, riferisce Marina Moioli, e il problema è serio per l'ecosistema della zona. Quindi il governo ha già stanziato dei fondi, 1 milione di euro, per rimuovere le imbarcazioni, però si sa già che l'operazione verrà a costare di più. Ci sono attualmente 240 di queste carrette del mare che appunto hanno trasportato i migranti, hanno trasportato questi profughi, sono per il momento ammassate nel porto e nei depositi temporanei dell'isola. Qualcuno conta anche di però salvare qualcuna di queste carrette, magari per farne un museo, per farne, come dire, per tenere memoria di quello che stiamo vedendo, di quello che stiamo vivendo in questi anni. E con questa ultima segnalazione io vi ringrazio, grazie ancora a Filippo Auregi in regia, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Magazine 24 ha anche una mail, è magazine24@radio24.it. Noi torniamo come sempre sabato prossimo.